Friuli nel mondo, 79esima trasmissione dedicata agli emigrati. Quatri ciacaris sot la nape. Vigliacco. Si vise in chiemò di tutte la guerre, di par di, e a somut al riguardo anche gli sdati. Queste al dis e gli la storia di quanto aveva il tifo, dai primi di mai agli ultimi di settembre del 17. Cumò usconti di quanto aveva la spagnola o la colerine, perché lui alla screadis tutti gli smalatis de guerre mondiali. Ma non l'ha fatta un edidie. Nessun miedi di chi devo essere lo ha mai riconosciuto. Par vie che giusto a pont li screava lui gli smalatis e nessun li sconosceva. Cumò, calevi fangiemò, lo clami in fiori, ma in che volte lo clamavi in vigliacco. Non par vie de pore, all'iere sicuro di torna a casa, all'iere partito con che. Fa male a di nessun e il Signor provvederà anche per me. Gli ufficiali non sapevano che anche gli sbesti si avevano fatto sempre duro, o potevano scrodere i cristiani. Anche se la guerra avesse durato 20 anni, lui non avrebbe scopato neanche una liserta. C'è pasta di uomo. Ma le sta disgraziata. Prima il tifo, poi la colerina, e glaciasi pis, e la spagnola, e pantan, e pedoi, simpri, tagni. All'era il mese d'avril dal sedis, quando tacca la colerina. Sot vie de Stofanis, all'era un buon metro di neve, e lì dal camminament, alavi in su e giù un biel trop di furlan. Avevi provato tutti le scuris, parfin, con buon rispiet fevelan, a sentarsi tenere, a crop, ma non gli era caso di stagnarsi. All'era ormai giornadis e giornadis, e il camminamento all'era transitabile nome di una banda. Allora Fiori si decide a partire. All'eiu paroris, e dopo tanti sfadis e tanti sostis, arriva sul pues di medicazione. Dos tendis, tu ne valete, intorno di un groput di pins. Fiori lo conosceva il poest, perché che era stato anche mo per altri disturbi. Don J. Pins appassionava in due mui, d'un splaciut metà de neve. Fiori a fare un'ultima sosta, si netà e poi gli entrà. Cosa avete di sall'ufficial miedi? Sciolta di corpo di sal Fiori, vigliacco, vi conosco di sal capitane. Non disegni altri, e Fiori non batte c'è. A sbassare il chiaro, si voltà e a lieci detende. Ben planca al torna sua sette pal camminamento, senza neanche chialà la calmeteva i pis. Ogni tanto si voltava e gli stendi si abbassa diventavano sempre più piccoli. All'iere sulla Monzorelli con chi si voltà anche mo, e gli stendi si era in combe due sparchi, laiù. Profiti in quel al sentì di primi scanonades. Lui io conosceva i 280. Arrivava in subito dopo dal colpo. Ai erano impignati grandi e l'aiuto valete a fare venduto un taramò. Gli stendis, i pings, il capitani miedi e i mui a saltare in paraia dopo 4 o 5 colpi. Fiori di lassù non potesse trattenirsi. Mi conosco come vigliacco di sal. Ma subito una grande pena stringe il cuore. E ieri passate l'Ave Maria, quando il mondo si quietà, e tutto tornò in pace. Fiori si sentà sull'orda al camminamento. Gli pareva di sentire come un fiume gli schiampanis de Soplev sulla più biele colline dal Friuli, e dentro vie, che la sentive franche, una grande lamiece di storie. al viodeve i suoi doi frutins a rispuindi ola pro nobis all'ornone che tignive sui rosari palpai che noi facessim mal e che non facess mal e la panse i bruntulava e si chiatava i coraggio vigliacco si disè di besovol non sta quarnà pardoi mui e bel plan al tornasù a servisi sotto de stofani. Beas i viei, beas i viei, chi che non sanci che è la tappa a cronometro, e di tutti gli speraulis tecnici di giù, a cognosi il nome fuori il mi chiamo, chi che sa bevi in spume, non la tegni in angitastone. Unedì, Hermis Moulin aveva un faganel malar, aveva bevuto un incastri, un faganel che al dismuoveva tutto il borg, se stava bene. Hermis al mando Emilio Voraccia viodilo. Emilio al va a chialale, poi al tornecà. E allora disse all'Hermis, se ti sei meglio. Mal, mal, disse al Emilio, non mi ha neanche conosciuto. Emilio Voraccia lo vese a mens, no ma? Alla chelca la dite che cumò, si scugne tagliato tutto il formento a macchina, perché che non sono sesulis. E ieri subito dopo le svotazioni dal 44. E Iacun Dos lo vese conosciuto, quel che ha proclamato rispondi ad un'eccitazione a 85 anni, per via di un debito di 15 francs. Il giudice conciliatore impone di parare il debito. E Iacun, opai, sì, signor giudice, se il signor mi dà la grazia di chiedere lavoro, opai, sì, perché no. Quando al morì, al clamare il plevan e al fare test dei suoi mani. Signor Plevan, ho vorrei voi di lasciare 500 francs per l'Eglise e 1000 per il beneficio. Bravo, Jacob, bravo, la speciale Plevan, un galantom di vivo e un galantom per muore. E in due la saresti no chi sbesi? Alla che alco pensi in Giomo, signor Plevan, ha risponde Jacob. Una carogna di vivo e una carogna di muore, al giontal Plevan. Ma in che volte carogne al voledì di Nin? Allì era tutto un altro mondo. Pensai che il vicario Merlus, qual veniva giù di Santa Margherita come il sfulmin in biciclette, al correva s'avesa per c'è. Facce calere sui grazzi la vite e al tentava di colà perché passi altro. In che volte nessun robava, accirivi di guadagnarsi la vite onestamente. Voi invece tale un onore a farsi mantenere. Di pat checo alla fat con che un contadino al mantenne siet di loro. Al manco il covese la soddisfazione di sapere quai che sono i miei, disse al pilocco. Avaressi di mangiare curteve, anzi, per dire la verità, lui era dite sottile. E invece di mangiare, ha adoperato un'altra parola di significato quasi contrario. Ma contens di stesso, in buine e di cur. L'unico vizio all'era che non usava in patissee, che anzi, doi amion di breccia una volta, doi di chei che studiava in la sedda spes, all'era a confessarsi a feagne, per via che là, in chi timis, all'era un predico al pative tante di che sete anche lui, e dunque all'era un'evore adatta a capio. Ben, si spettaressi so vuatris una domanda di che ste fatte. C'è vin bevesa. Ben, il plevan ora fatta queste domande. Signor plevan, o hai il vizio di bere, ma ho bevuto una vora, a tutti le sores e tutto il team da là. E c'è vin beveso, disse il plevan. E c'è voglia, disse il primo, valiere beppo, robe di chiase fin candè. E dopo tai cantinomus, Clinton, Merecan, Nostran, anche Bacosio, basta casse di neri. C'è brut visico vese. Non saveso che il vin al pare lompa fil di bestie. Ben ben oramai c'è calè a lè e par pinitinci o diseres vingi rosaris. In che volte gli spinitinci saierin un po' chialchiadutis. Il pecchiador al cedè il confessionario al suo compagno, ma con che si scambiarin il puest, Beppo non poté fare di manco di visà la me, calveve non tin. Dipo tin, viot che io col bacò e merecan o ai vingi rosaris su peschene. tu che tutt'altri sbutigli, ti incapita un schialato. Ti non capì ben, li parlè, e le so. Anche lui aveva nome un pecchiato. Si plevan, o bev sempre, e non soi mai pleno. E c'è vin beveso di salpolato. Si plevan, sulla mesteme si potrà scrivere un'evora e buon. Io ho chiucci i butigli di rosacis e di faedis. A chi rezzi visate speraulo dal suo a me, al capì di col, al fermà di bo, a sbassà il chiar e al spietà la sglavinata di rosaris. Il confessor al sclarì la voce e poi al sentenziare. Con la verità si laude Dio, saveso ci coi di Dius, quel di rosacis me pete anche a me. Po ben, al continuare il plevan, ci ri di non passare la misura. Sì, insomma, ci rin di limitarsi e per pinitince o disarin tre gloria patres. La conclusione poche ting aiuta Beppo a dire rosaris e Beppo a cambiare qualità di vita. Ma non poter in fare la comunione tal'indomani, perché calere a chiase dopo di Ave Maria di Buinore e a Romai aveva infatti richiaduto.